Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'impresa della Juve, davvero autentica. Il flop della Fiorentina, purtroppo altrettanto autentico. Ma la notizia del giorno è la sorpresa che arriva invece dal Milan, che ha prima lasciato trapelare e poi confermato ufficialmente l'ingaggio di Beckham. Sentiamo l'amministratore delegato Galliani. Dovrebbe arrivare, resterà qui in prestito qualche mese, insomma vediamo, adesso stiamo parlando con il suo agente, lui ha scelto il Milan, noi siamo ben contenti di ospitarlo, adesso vediamo per quanti mesi, credo che lo tessereremo per qualche mese, poi ripartirà, vedremo insomma che cosa fare, ma voglio dire è un qualche cosa di più, il Milan ha la squadra assolutamente ultra competitiva, non faremo nessun né partenze né voglio dire salvo qualche che so il 23esimo, 24esimo, 25esimo giocatore, ma la squadra rimane quella che è. Beckham è un qualche cosa di diverso e di intrigante e quindi probabilmente arriverà. Il primo commento che vedo sul display è firmato Giulio Fassoni, è un milanista, tant'è vero che parla al plurale, e sinceramente non è male. Dice, invece di ingaggiare un bel difensore abbiamo ingaggiato un bel calciatore. A San Siro stanno allestendo una tribuna rosa da almeno 10.000 abbonati. Buona trasmissione. Grazie. Questa era la notizia del giorno, poi ovviamente la commenterete in maniera varia, così come commenteremo più tardi insieme le prestazioni di Juventus e Fiorentina. C'è già un altro commento, un fedelissimo, Omar da Bologna, scrive: dopo aver visto ieri la Fiorentina ho capito perché Zenga lo scorso anno per salvare Catania aveva spostato Vargas dalla difesa a centrocampo. I commenti a ieri sera, prima di entrare in collegamento con un personaggio, con un amico speciale, i commenti cominciando da quello di Ranieri. È stata una partita difficile contro il Real Madrid, non poteva esserlo diversamente. Abbiamo fatto i primi 20 minuti veramente belli, forse li abbiamo sorpresi. Real che ha abituato lui a partire a fare subito gol nei primi minuti, invece l'abbiamo cercato noi, l'abbiamo trovato, non ci siamo fermati, volevamo fare il secondo, abbiamo poi controllato la partita riuscendo a restare sempre molto corti, nel secondo tempo siamo riusciti a raddoppiare e poi dopo piano piano la pressione del Real anche con l'entrata di Robben, di Drenthe, cercavano per forza di cose di allargarci, di trovare degli spazi più sull'esterno, cosa che centralmente vedevano che non riuscivano a entrare. Sono pervenuti al gol, io credo che sia stata solo quella l'unica occasione pericolosa. Era importante vincere, non tanto per la situazione, ma proprio per la Champions League. In effetti, leggendo la classifica, la pratica Champions League per la Juventus, cioè la pratica qualificazione, potrebbe essere archiviata. Si è invece molto complicata la situazione della Fiorentina con questa netta sconfitta a Monaco, di cui adesso sentiamo il commento di Prandelli. I primi minuti sicuramente sono stati difficili, però dal decimo abbiamo cominciato a giocare, abbiamo cominciato ad avere quel coraggio che questa squadra ha e abbiamo costruito anche delle situazioni interessanti. È mancato un po' di lucidità sotto porta, un po' di fortuna, che ci vuole sempre un po' di fortuna, però cosa vuoi dire, questi ragazzi hanno lottato, hanno contrastato una squadra che ha dichiarato di voler lottare per vincere la Champions, quindi non abbiamo fatto una brutta figura. Inizialmente no, per l'intero primo tempo no, sullo 0-1 e poi ancora sullo 0-2 la Fiorentina ha sprecato molto, ma ha costruito altrettanto e questo è un segno di salute. Poi per la verità a gioco lungo la squadra si è un tantinello sfaldata. Riprenderemo questo discorso più tardi, questi discorsi più tardi, con i vostri commenti, i vostri consueti interventi in diretta all'800 24 00 24. Adesso il benvenuto, anzi il bentornato, come vi ho promesso, ad un vecchio amico mio e dei più fedeli tra voi ascoltatori. Sto parlando di Osvaldo Bagnoli. Buongiorno Osvaldo. Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao, ciao. Dunque, spiego a te e spiego agli ascoltatori perché questa convocazione d'urgenza di Osvaldo Bagnoli. Apro la Gazzetta stamattina, la Gazzetta dello Sport, e trovo un'intervista ad Arrigoni, l'allenatore del Bologna, che domenica, insomma, avrete visto l'immagine, è stato addirittura travolto dall'affetto dei suoi giocatori in panchina dopo il primo gol. Gli hanno chiesto come mai, come fa ad avere un rapporto così. E lui ha risposto, non lo so, mi aiuta forse essere stato uno di loro. capisco bene un giocatore cosa proprio non sopporta, però adesso non vorrei che si pensasse che faccio fare alla squadra quello che vuole o che li mando a ballare la sera. Io ho imparato la gestione del gruppo da Osvaldo Bagnoli, ha raccontato Arrigoni, e di tutti gli allenatori che ho avuto è stato certamente quello che mi ha colpito di più. Fermati, non è ancora il momento di intervenire. Perché? Perché questo mi ha fatto venire in mente un'altra intervista che avevo letto recentemente ad un altro allenatore giovane, e sto parlando di Ballardini. Gli hanno chiesto, e questa è un'intervista a Repubblica di un paio di settimane fa, la domanda era: lei è stato un giocatore di sacchi? E lui dice: sì, è vero, e qualcosa da lui ho mutuato, molto ho imparato, qualcosa ho corretto, perché per esempio io preferisco giocare a pallone prima e perfezionare gli schemi poi. Ma poi ha aggiunto: in ogni caso il ricordo migliore che ho è quello di Bagnoli. Che persona, che umanità, che buon senso, intelligente, splendido insegnante, grandi conoscenze calcistiche. In lui rivedo il buon bidello che diceva, perché aveva appena finito di dire che lui non si sente né sergente Ballardini, né sergente di ferro, né professore, si ritiene semmai un bidello. Secondo me questo Ballardini ha preso molto da te, davvero, Osvaldo. Comincio a essere preoccupato che tra qualche giorno mi monto la testa. A forza perché... di elogi postumi, no? Perché sentire certe cose adesso di fuori, che è chiaro che ti fa piacere, sentire queste persone che ti hanno conosciuto e che hai avuto, non dico lavorato con loro, perché io odio la parola nel calcio lavorare, ma già non è tanto il tuo genere, eh? Ecco, lavorare è un'altra cosa per me, è chiaro che questo mi fa sicuramente mi unisce col mio modo di pensare, che era quello che io mi comportavo, e soprattutto tenevo conto di quelle delle esperienze che ho vissuto io da calciatore. Modesta carriera, però non c'entra la modesta carriera, ma c'entra il rapporto che tu avevi con i tuoi compagni, con l'allenatore, e che le cose che provavi, se giocavi o non giocavi, e chi ti amministrava, come si comportava. Ecco. E questo io... è sempre stato un principio del mio modo di comportarmi, insomma. Osvaldo, mi fa piacere adesso sentire certe conferme che anch'io non sbagliavo, insomma, ecco. Me l'immagino, anche perché sono ricordi che risalgono a, parliamo dei tempi del Cesena. Sì, no, quello che mi meraviglia è sentire queste cose qua a distanza di 25 tutto il mondo che è cambiato, insomma, certo, ecco. E infatti ci arriviamo ora. Già devo dire che se anche cadesse la linea adesso, o fosse caduta un minuto fa, tu avevi già detto quella del lavoro, che quando tu senti parlare, senti che la gente dice che lavora col calcio, già questo, come dire, non ti è molto congeniale, no? Io credo che... No, io sono sempre stato contrario. Ecco, a usare il termine lavoro applicato al calcio. Per me è sempre stato, sì, se mi dicono che c'è da fare delle rinunce, degli sacrifici, siamo d'accordo, perché delle rinunce, io per esempio, tanto per dirti un esempio, per farti capire tutto, avevo 17-18 anni, giocavo nei ragazzi, io se c'era sabato grasso a Milano, io non andavo a ballare come facevano certi i miei amici, ma andavo in letto perché sapevo che la domenica c'avevo la partita e volevo far bella figura, mi piaceva giocare, mi divertiva, e questo mi riempiva di mi dava quello che io, ma questo non è, questo può essere sacrificio, insomma, d'accordo, può essere qualcosa, ma non lavoro, insomma, via. Il lavoro, dato che l'hai provato il lavoro, e siccome io ho provato ragazzi, lavorare, il lavoro è un'altra roba, Dunque, senti, la cosa è tanto più singolare, da un lato perché sono passati, dicevo, circa 25 anni dai tempi in cui ha incrociato, o meglio, Arrigoni, Ballardini e tanti altri hanno incrociato te come allenatore a Cesena, prima dell'epopea veronese, ma Il fatto davvero singolare è questo, perché questo è l'anno dello Special One, cioè è l'anno di un grande allenatore, di un grande personaggio, non si sa se più personaggio o più allenatore, ma insomma forse tutte e due le cose al massimo livello, che sta spopolando in Italia da un punto di vista mediatico. Ora, mi sembra che questi giovani allenatori di particolare successo, come nel caso di Ballardini, dicano invece che allo Special One di ispirarsi al Normal One, per eccellenza, come eri tu, no? Questo mi sembra una controtendenza che dal mio punto di vista è strepitosamente positiva. È curiosa, però. Beh, io potrei pensare che anche, non so, anche ai miei tempi che ero giocatore, io ho avuto un allenatore che ho stimato come maestro, come insegnare calcio, insomma, così è stato a Cariquarto. E però a quei tempi là c'era anche Herrera. Okay. Perciò io dico, i tempi cambiano, però ci sono forse delle persone che vogliono comportarsi come sono loro e non magari come ci sono ancora delle persone che sono fatte in un modo e fatte nell'altro. Io penso, ecco, l'allenatore dell'Inter sicuramente penso che abbia delle grandissime qualità, perché se no non va in giro a vincere e queste cose, sì. Qua però probabilmente per amministrare certe situazioni probabilmente è diverso, ma al di fuori di quello penso che allenare l'Inter o allenare dove devi vincere e allenare e hai dei giocatori di grosse personalità e magari allenare in una squadra diversa, forse dove sì è importante anche là vincere, ma non è tutto quello che è importante, probabilmente può anche comportarsi in una maniera diversa, ecco. Te ne dico una di stamattina, questa è inedita al momento, nel senso che è apparsa su un sito che si chiama philfootball.com, a cui Mourinho collabora. Non c'erano i siti ai tuoi tempi e quindi era un'esperienza che tu non potevi fare. Stamattina, o ieri, non lo so, Mourinho ha dichiarato: io credo che sia giusto definire Didier Drogba uno che si tuffa. Allora, Didier Drogba è stato il centravanti di Mourinho del Chelsea per un po' di anni. Dice: adesso che non sono più il suo allenatore, io l'ho sempre difeso dall'accusa di essere un simulatore, ma adesso che non sono più il suo allenatore non devo più stare a difenderlo. E poi ha aggiunto anche Cristiano Ronaldo, Torres e Persi sono tuffatori. Tu, a distanza di 25 anni, ti senti di dire che magari Galderisi ogni tanto si lasciava andare? Oppure non è il caso? Io adesso non voglio fare, per l'amor di Dio, le cose. Io penso che Mourinho queste cose qua le abbia dette così, tanto per adesso c'è la facciata televisione che è il quadratino, che è il quadrato più importante che ci sia al mondo, penso ormai, sì. No? Per tutte le cose, no? E io penso che lui le ha dette così, ma io penso che è un modo di pensare sbagliato. Io se uno fa queste cose qua, io devo fargli capire che non è da fare. Ti auguri che sia stato una delle recite da personaggio, no? Sì, che non sempre gli riescono bene, quando magari storpia i cognomi dei colleghi. Anche perché mi pare una persona molto intelligente, molto furba, no? Sì. Riflessi, penso. È chiaro che adesso c'è il quadratino che sicuramente io lo dico con molta, molta sincerità, probabilmente io mi sarei trovato in imbarazzo di più se ai miei tempi c'era il quadratino così importante, insomma. Ai miei tempi il quadratino non era ancora così importante. Per fortuna tua e dei tuoi tempi soprattutto. Torniamo in compagnia di Osvaldo Vagnoli e proprio perché trattasi di un, non dello Special One ma del Normal One, io farei un'eccezione per lui, e cioè ti passerei uno dopo l'altro, farei intervenire uno dopo l'altro due ascoltatori che hanno chiesto di intervenire specificatamente proprio perché hanno sentito la tua voce. Chiederei però a tutti e due di essere molto brevi. Massimiliano da Verona, dica, buongiorno. Buongiorno, io sono Massimiliano dall'Isola della Scala. Pensi che sono a Cagliari per lavoro, accendendo la radio 24 che scendo e salgo dalla macchina, solo sentendo la voce ho capito che era il grande Osvaldo Vagnoli. Niente, io volevo fare questa domanda al signor Bagnoli. Allora, innanzitutto da tifoso del Verona penso che ho vissuto lo scudetto, perché ho 37 anni, ero giovane. Dire adesso a un bambino che il Verona attuale era così sembra impossibile. Le chiedo questo: quanto secondo lei, da grande allenatore, ha perso nel calcio la figura del libero, Tricella, Soldà o quello che era allora in quel ruolo che adesso sta sparendo completamente? Bene. La seconda era la motivazione. Piano. Se ci riesce ancora oggi a dare delle motivazioni ai calciatori come lui riusciva a dare, perché l'anno che siamo retrocessi nel 90 in 16 partite aveva fatto 9 punti, ma la squadra lui la teneva sempre su. Ma Massimiliano, meno male che era un intervento breve. Osvaldo? Sì. Ma pare che il coso sia quello di che si è perso il modo di avere un libero, no? Sì. Mi pare. E beh, è cambiato il modo di stare in campo, come è cambiato in tante epoche questo, e adesso il libero non la do proprio nessuno. Certo. Anzi, non viene nominato perché è reato, forse, in un certo senso. E a me torna in mente, mi aggancio alla domanda di questo ascoltatore e alla tua risposta, perché? Perché ieri sera abbiamo visto in Coppa, nella prima serata di Coppa, in totale 36 gol. Io so che ieri sera tu avevi un impegno e quindi non sei particolarmente documentato. Vorrei che stessi sulla fiducia. Ce ne sono 20 su 36 almeno che qualche anno fa insomma, avrebbero comportato l'arresto immediato proprio. Cioè, nel senso che mi pare che libero o non libero si sia molto disimparato a difendere in generale, o sbaglio? Beh, insomma, è chiaro che ogni come si può dire, ogni modo di stare in campo ha i suoi risvolti, insomma, i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Però io dico che lo stesso number one, come lo chiami te, no? No, come lo chiama gli altri. Beh, sì, come lo chiamo adesso a parte. Sì, no, number lo stesso one. Mourinho, io sì. Dico, con tutto il rispetto per la sua capacità, la sua di tutto, no? Perché non posso permettermi di dire certe cose su una persona che ha dimostrato di essere bravo, di dirigere, di vincere, insomma. Sì. Però io quel poco che ho visto in televisione, questo sì, è un giocatore, un allenatore che ha vinto tutto, ma con la cosa di primo non prenderle, però. Ti sembra che questa sia la linea di partenza, eh? Ma per conto mio, questo è abbastanza evidente, troppo chiaro. Sì, per carità, è un segno di saggezza, intendiamoci, è un segno di realismo, eh? No, non è certamente una colpa. Non è un'offesa. No, anzi. Una volta dicevano che di solito le squadre che vincevano prendevano pochi gol. Capisco che per vincere bisogna anche fare i gol, questo, certo, è logico. Assolutamente. Però se io dico la squadra è forte, le più forte, avanti ai... Ibrahimovic e tutta quella gente lì, prima o dopo il gol lo fa. Certo. Ecco perché io penso che lui prima non prendiamolo. Nulla toglie che abbia un terzino, tanto per fare un esempio, sì, più semplice di così, visto che parliamo come un terzino che è il miglior, penso, terzino fluidificante che spinge avanti, che è al il terzino mondo destro dell'Inter. Ah, non c'è nessun dubbio che Maicon oggi sia un'eccellenza mondiale. Ancora un ascoltatore, ma più breve, però la pregherei di prima. Cristiano da Genova. Buon pomeriggio, Garanzini. Dica. Dunque, senta, io ovviamente telefono da Genova, sono tifoso genuano. A proposito dell'umanità di Bagnoli, volevo anche sottolineare l'estrema durezza quando mise a posto i tifosi del Genova, ai tempi, cos'era, 90-91, quando allenava il Genova, il primo anno di Thomas Curavi e Aguilera, sì, perché in quel periodo lì, le prime giornate il Genova non andò tanto bene, ecco, e mi ricordo che li mise in riga perché ovviamente la tifoseria del Genova, la forza dei grifoni ai tempi, insomma, si era un po' rivoltata, e mi ricordo che si erano presa con Bagnoli. Grazie, grazie Cristiano. Corrisponde, Osvaldo? Sì, sì, corrisponde, sì, corrisponde. Ma però io penso che non è che io li ho messi in riga. Perché li ha messi in riga perché la domenica dopo abbiamo vinto, insomma, e dopo abbiamo fatto un buon campionato, no? Certo. Però io venivamo da una partita di Coppa Italia dove prima ancora, c'è dei preconcetti verso un giocatore, verso la squadra, prima ancora di perdere la partita, insomma io dissi certe cose che dico, se una, se la, questa è la tifoseria che deve essere vicino a una squadra, mi dispiace, ma non siamo d'accordo. È chiaro che ho corso i miei rischi, forse, ma forse io quando l'ho detto non pensavo ai rischi che correvo, perché probabilmente se non andava bene dopo la domenica forse era ancora là, certo. Insomma, ecco perché. Però chi ha messo in riga la tifoseria sono stati i risultati della squadra. È chiaro che probabilmente io con quella, con quello che dissi, che sentivo di dire, per il momento che era, probabilmente feci una cosa che sicuramente diventai l'allenatore dei miei giocatori, ero qualcosa di sicurezza. Certo, insomma, ecco. Avevi preso dei punti all'interno dello spogliatoio. Non ti dico quanti messaggi ci sono, ti cito addirittura uno, Maurizio Robaldo, che è un altro fedelissimo, che dice un caro saluto e un abbraccio a Grande Bagnoli, perché è nato il 3 di luglio, evidentemente è il giorno del, è il giorno del tuo e del suo compleanno, questo è logico. Dunque, volevo chiudere, perché ormai il tempo con te non passa, vola, volevo chiudere con una domanda, perché io, cioè, facendo il panorama degli allenatori di Serie A e dopo aver ricordato proprio in partenza, no, Ballardini e Arrigoni che dicono, confessano, ma con piacere, con fierezza, di ispirarsi a te, ai tuoi metodi, al tuo modo di essere allenatore, io trovo che ce ne sia uno in Italia, che è quello di Napoli, che è Rey, che in un certo senso mi ricorda, non dico tatticamente o tecnicamente, okay, ma mi ricorda per quel modo composto e forse anche un po' sofferto di stare su una panchina, o mi sbaglio? Ma guarda, con Rey ci ho giocato insieme, lui era all'inizio della sua carriera, io ero alla fine, se può dire. Ed era alla SPAL, no? Alla SPAL, sì, giocammo 3 anni insieme e lui veniva dal settore giovanile e si impose, come si impose Cappello, come si impose Pasetti e tanti altri. Adesso i primi che dico sono quelli che forse hanno fatto la miglior carriera, insomma, ecco. E io invece ero fra quelli che ho chiuso forse un po' l'attività di un certo livello di perché l'età era quella, insomma, no? L'ho conosciuto, era un bravo ragazzo, dopo è venuto anche, ti dirò che dopo l'ho conosciuto ancora meglio, perché dopo venne un anno a Verona a fare l'allenatore, sì. Ti dirò, da brava persona, da bravo ragazzo e da amico, perché così io mi ricordo, senza avere tante cose, però mi ricordo che andavo a trovare mia figlia al lavoro, cioè quelle cose che vogliono dire, che entrano dentro, certo, alle persone, insomma, ecco. Tutte cose che garantisco che non sapevo e che però così a pelle si possono provare a percepire. 20 secondi, può avere qualche speranza di tornare un po' più sul Verona quest'anno, il tuo Verona, o mi chiedono tanti veronesi per iscritto, o tanto vale rassegnarsi ancora? Penso che sia ancora presto per dire certe cose, poi io non ho neanche i numeri sotto, perché adesso è un po' di, non seguo più il calcio, sì, non conosco né gli anziani né i vecchi, insomma, mi dà l'impressione che forse quest'anno non si soffrirà come l'anno scorso, però non è sicuramente la squadra che ti illude per che avrebbe bisogno la tifoseria veronese, insomma. Osvaldo, quando vengo a trovarti a Verona ti porto la striscia, insomma il testo di tutti i messaggi che sono arrivati in questa mezz'ora scarsa, perché è sinceramente impressionante, è un impegno che prendo sin da ora. Va bene, ti ringrazio, un abbraccio. Alla prossima. Grazie a Osvaldo Bagnoli, grazie a tutti quelli che, insomma, ripeto, che stanno intervenendo. Torniamo in onda e ascoltiamo il commento di Carlo Ancelotti all'arrivo di Beckham in maglia rossonera. Beckham è conosciuto per una grande professionalità, una grande serietà, è un grande campione, quindi se lo possiamo avere a disposizione per 3 mesi, 4 mesi. Credo che dobbiamo essere tutti contenti di questo. Beh, se lui viene tesserato dal Milan e diventa un giocatore del Milan per 3-4 mesi e quindi disponibile sia in Italia che in Europa. Un grande giocatore Beckham è un grande incassatore, Carletto, indubbiamente, non è la prima volta che lo dimostra al meglio. Ci sono già degli ascoltatori in attesa all'800 24 00 24. Ci sono tanti messaggi ereditati dalla prima parte del programma, però ci sono anche commenti e anticipazioni da ascoltare. Allora, intanto le vigilie delle partite di stasera, quella molto, molto sofferta, che immagino toccherà alla Roma a Londra, è quella, sai, più distesa, che toccherà all'Inter a San Siro. Spalletti. Quella che è la reazione che mi interessa di più è continuare a mantenere una certa serenità all'interno dello spogliatoio. Io sono convinto che poi, se i ragazzi sanno valutare bene le cose, cioè quelle che sono le loro qualità e quelle che sono poi le difficoltà di questo momento, con serenità è la reazione più importante che si possa avere. Più che il Chelsea, noi dobbiamo fare attenzione a combattere quelle che sono le nostre difficoltà. Il nostro nemico sono le nostre difficoltà, che sappiamo quali sono e che per certi versi conoscevamo già un pochino anche gli anni precedenti. E di conseguenza bisogna mettere a fuoco bene queste difficoltà e combattere queste difficoltà. E dopo viene naturalmente anche il Chelsea, perché è uno dei club più importanti al mondo, allenato da uno dei più grandi allenatori del mondo. Beh, bello il finale, tutto il resto con quella ripetizione ossessiva della parola difficoltà, insomma non è facile andare al ritmo di una conferenza stampa al giorno quando basta. E certo sentire Spalletti parlare di, appunto, difficoltà o di errori, cose, dobbiamo metterli a fuoco. Beh, insomma, se non li ha messi a fuoco, cioè, se non gliene ha messi a fuoco l'Inter con quella partita di domenica, io non so cosa serva ancora per inquadrarli, per l'appunto. Un'altra vigilia, no, prima un ascoltatore, alterniamoli. Emiliano, provincia di Forlì e Cesena, buongiorno. Ah, buongiorno, Granzini. Dica. Ascolti, niente, anche io trovo che il discorso di Becker sia proprio anticalcistico, ma per chi ama il gioco del calcio, perché ormai, santo cielo, questo a fine carriera verrà qua a far fare la spesa in corso Vittorio Emanuele. Non lo trovo sportivamente una cosa corretta. Poi Ancelotti è un grande, come ha detto lei appena adesso, perché riesce a gestire delle situazioni, delle cose che sono assolutamente a volte ingestibili per altre persone. Credo che faccio un discorso non da tifoso, ma da sportivo nudo e crudo. E pensare a certi giocatori italiani all'estero, soprattutto i giovani, ti piange il cuore, ecco, tutto qui. Sì, io sono proprio completamente d'accordo con lei. Mi sembra una cosa, ma lo vedo anche dalle reazioni degli ascoltatori. È molto diverso che per Ronaldinho, no? Nel senso che su Ronaldinho ci si poteva anche dividere. E io credo che molti scetticismi fossero leciti e siano ancora leciti entro un certo limite. Ma si parlava comunque di un giocatore di 28 anni che era in flessione grave da un paio di anni, ma che oltretutto, quando è stato il miglior Ronaldinho, era veramente un campione. Io personalmente ho sempre ritenuto Beckham il campione dei bluff del calcio del dopoguerra, nel senso che ho sempre pensato che non basta crossare a banana per diventare il fenomeno che il circo mediatico ha cercato di spacciare, però queste sono valutazioni molto personali, che trovo però altrettanto condivise, mi sembra, perlomeno da queste prime reazioni a caldo. Claudio da Milano scrive addirittura: come promesso in campagna elettorale, Berlusconi sta davvero aiutando i pensionati. Beh, pesantina, ma non c'è dubbio che Beckham, con una lunga carriera ormai in flessione, dopo l'esperienza complessivamente negativa, per non dire quasi fallimentare, nel rapporto qualità-prezzo al Real Madrid, è andato per l'appunto in pensione negli States, e nemmeno là, nemmeno il Galaxy a Los Angeles rileva particolari performance di questo giocatore. E magari invece, come può capitare davanti a una grande platea, si ritrova l'entusiasmo, ma magari poi invece Beckham sarà utile alla causa e magari 3-4 partite da grande riuscirà a piazzarle. Aurelio da Como, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo solo commentare, chiedere il suo parere. Io ho vissuto la serata ieri a Torino, io vado pochissimo allo stadio, sono tifoso della Juve, ieri ho avuto l'opportunità di andare a Torino, a parte qualche momento prima della partita dove i tifosi aspettavano il pullman del Real per insultare Cannavaro, ma poi c'è stato uno spettacolo direi unico, forse anche perché non c'erano i tifosi avversari, per cui è stato un comportamento civile da parte di tutti, un bellissimo spettacolo, molte bandiere, molta festa. Al di là della vittoria della Juventus, se avessero anche pareggiato, come forse Real Madrid avrebbe fatto, qui magari chiedevo il suo parere se anche lei la pensa come me, però poi come spettacolo globale visto dal vivo così è una cosa che consiglierei a tutti. Io ho portato i miei bambini, i miei figli, è stata una serata direi molto bella, ecco. Forse ripeto però perché non c'erano i tifosi avversari con cui prendersi a botte prima della partita. Qualche tifoso avversario c'era, per la verità, due, sto leggendo un'agenzia, due sono stati fermati anche prima della partita, due madrileni, uno aveva rubato una bottiglia di whisky in un supermercato e ha reagito violentemente a un commesso che ha cercato di fermarlo, l'altro invece ha lanciato un petardo durante la partita dopo il gol di Van Nistelrooy, insomma qualcosina c'è stato. No, è certo che è stato, è più facile insomma, no? Se si è tutti di una stessa fede o parrocchio, la chiami come le pare, in qualsiasi stadio. Quindi bella sera tecnicamente e come risultato non c'è nemmeno a parlarne. Io devo dire che tra gli juventini a Torino con Cannavaro e i fiorentini addirittura in trasferta a Monaco con Toni, sono riusciti comunque a farsi riconoscere per l'ennesima volta, perché ci sta tutto nel tifo, ci stanno le rivincite, ci stanno le antipatie, ma urlare in mondovisione quello che hanno urlato per 90 minuti a Cannavaro e per un po' meno a Toni perché è uscito prima, in ogni caso non qualifica positivamente una tifoseria, anzi la squalifica, se è per questo. Angelo ha chiamato da Pesaro, buongiorno. Angelo aveva chiamato da Pesaro, ma mi sembra che il tutù qualcosa dica. Abbiamo ancora qualche bella voce, io credo, da sentire di ieri sera per arrivare all'ultimo traguardo di oggi, che è quello degli aggiornamenti sul traffico. Sentirei che cosa Del Piero ha detto a proposito del Real Madrid. Sono contento, spero che voglia dire tanto, spero che sia un grande passo iniziale per poterne fare altri, perché abbiamo altre partite durissime davanti a noi, non abbiamo fatto tra virgolette niente, però stasera è una grande vittoria per come l'abbiamo ottenuta, soffrendo tanto. Ineccepibile il commento, soffrendo tanto, ma soffrendo comunque alla fine meno del previsto, perché proprio perché quello strepitoso gol applaudito per primo da Michel Platini nel suo vecchio stadio di Torino, beh, quel gol indubbiamente ha cambiato il rapporto di forze in campo e quel gol l'ha firmato Del Piero. Giulio, un ascoltatore, invita a riflettere quante magliette con il nome e il numero di Beckham verranno vendute. Sì, certo, è vero che le logiche calcistiche oggi sono queste, quindi per carità. Poi almeno tre cross a banana bisogna piazzarli per vendere le magliette, perché sulla fiducia si possono vendere quelle di Ronaldinho, sulla fiducia le magliette di Beckham, magari qualche riservina in più. Ma insomma, parodiando un vecchio titolo, mi pare che Aspettando Beckham possa essere il titolo di questa ultima parte di trasmissione, in cui si inserisce con una certa prepotenza, direi, e mi pare che sia uno storico marcatore rossonero, tra l'altro si inserisce la data di oggi, il 22 ottobre, ricordato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 ottobre 1969, è il giorno della prima Coppa Intercontinentale nella storia del Milan. Allo stadio La Bombonera di Buenos Aires, i rossoneri, guidati in panchina da Nereo Rocco, perdono 2-1 contro le Estudiantes de La Plata, che rimonta con Conigliaro e Aguirre Suarez il vantaggio siglato da Rivera. È una gara resa difficile dal gioco apertamente violento degli argentini. Il Milan però si aggiudica il trofeo in virtù del 3-0 dell'andata, giocata due settimane prima a San Siro. Un successo frutto della doppietta di Sormani e del gol di Combin. È una data davvero storica, da gol di Combina e poi di tutto quello che combinarono gli argentini quella sera, perché è stata probabilmente, se non la partita più violenta della storia del calcio, una delle partite più violente della storia del calcio, e per una responsabilità assolutamente unilaterale. Qui c'è un milanista che infierisce, dice: anche Sergio della Lazio, se ve lo ricordate, crossava molto bene, il problema è che non ha sposato una star. Stefano, un attimo, perché no, un attimo, perché c'è un'indiscrezione sul Tour de France del prossimo anno. Partirà da Monaco il 4 luglio con una cronometro di 15 km, si concluderà il 26, come sempre, a Parigi sulle Champs-Élysées, ma il giorno prima della cavalcata finale sugli Champs-Élysées, quindi con lungo trasferimento aereo evidentemente, ci sarà la scalata del Ventoux, il leggendario Mont Ventoux, che manca da alcuni anni nel programma del Tour. Stefano, dicevo, da Verona, buongiorno. Dottor Garanzini, grazie. Buongiorno. Volevo chiederle questo, lo spunto lo prendo dalla sua affermazione di qualche minuto fa relativamente alla partita Roma-Inter di domenica scorsa, dove questa partita dovrebbe aver evidenziato tutte le lacune attuali della Roma. Allora le chiedo, fermo restando che questo aspetto delle lacune è incontrovertibile, non ritiene lei che poi quello che tra virgolette potremmo definire l'imponderabile, vedi il 4-0 di domenica sera, ci abbia poi messo lo zampino e abbia fatto sì che queste lacune si siano ingigantite all'ennesima potenza? No, non ho capito molto, Stefano. Tolgo le virgolette, oppure togliamole insieme, che tanto le virgolette contano sempre poco. Io credo che, non so se l'ho già detto nei giorni scorsi o se invece ne ho parlato con gli amici, perché poi insomma ogni tanto queste cose si sovrappongono, o l'ho scritto da qualche altra parte. Io credo che una squadra come la Roma, che nelle precedenti due visite di Ibrahimovic a domicilio, e cioè l'Olimpico, aveva preso 4 gol con la maglia dell'Inter l'anno scorso e con la maglia della Juve prima, sempre con Ibrahimovic incontenibile a tutto campo, nonostante qualche tentativo coraggioso ma fallito di marcatura, io credo che al quarto minuto lasciarlo andare via in quella maniera, non su un contropiede ma su un banalissimo lancio difensivo, sia un suicidio tattico tale da azzerare qualsiasi discorso successivo. Poi so e ho sentito che molti romanisti hanno detto che poi la partita è stata lungo equilibrata e che solo nel finale, eccetera. A me è sembrato che l'Inter, insomma, un po' di occhio ce l'ho. Mi sembra che l'Inter sul 4-0 si sia letteralmente fermata, come si usa tra gentiluomini o comunque tra avversari che si rispettano, perché sennò sarebbe finita almeno come quel Roma-Catania di qualche anno fa che tanto fece discutere. E quindi mi sembra che questo chiuda ogni altra discussione, credo. Renzo da Imperia, buongiorno. Buongiorno, grazie dottor Garanzini. Io avrei tante cose di cui ringraziarla per l'ora che ci ha fatto trascorrere quest'oggi. Con lo sbando, però approfitterò solamente del tempo che mi concedete per due curiosità. La prima, lei ha appena detto della partenza del Tour da Monaco, ma Monaco, il Principato di Monaco o Monaco in Germania? No, siamo più vicini al Principato di Monaco. Sì, no, direi da... non è specificato in questa agenzia, però dato che qualcosina avevo già letto su un giornale ieri, credo che sia proprio il Principato di Monaco. Speriamo bene. Seconda invece, a proposito del Milan di Beckham, se tutti questi messaggi che voi ricevete, che lei qualcuno ce l'ha letto ma non tutti purtroppo, io sono d'accordo comunque con tutti questi messaggi, il Milan aveva ben altri problemi che non Beckham, che non da risolvere con Beckham, e tutti questi messaggi li gira poi a Gargani, al Milan in sostanza, per renderci rendere la società consapevole di come la pensano i tifosi. Ah, ma lo sanno che era meglio evitare. Lo sanno benissimo e non ha nemmeno bisogno di un sondaggio per sapere che questa operazione Beckham non è particolarmente gradita. È una stagione così, per il Milan è una stagione di transizione, evidentemente. Tanto la UEFA io credo che la vinceranno lo stesso alla fine, perché sono nettamente superiori o comunque nettamente, nettamente competitivi, mettiamola così. E sul campionato qualche qualche speranza possono averla, se non altro perché non hanno l'usura e il dispendio della Champions e quindi della Coppa più importante. Si stanno levando qualche sfizio, qualche curiosità, stanno facendo la collezione delle figurine, mi sembra la filosofia degli Harlem Globetrotter, è un anno in cui, ripeto, se lo possono permettere. Certo, così facendo non investono sul futuro, su questo mi pare che i dubbi siano pochi. Sentiamo una vigilia ancora di partita, che è quella di Toldo, ripescato a sorpresa da Mourinho e in campo stasera contro la Nortosis. Toldo. Non è importante per me la pressione, perché ci sono abituato, è 15 anni che sì, anzi di più, 16 anni che gioco in Serie A, e di conseguenza per me non è un problema la pressione, anzi sono convinto che farò bene, sono convinto che la squadra risponderà benissimo e di conseguenza sono tranquillo, perché mi sento importante. L'importante è non staccare mai la spina. Se la concentrazione resta alta, sia giocare che non giocare, per me sì, fa differenza, perché uno entra in campo, l'altro sta in panchina, ma per riguardante il portiere io devo sempre stare concentrato. E questo era Toldo. Stefano ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, la mia domanda è molto semplice, io sono un tifoso juventino, sì. Io ieri ho visto la partita della Juventus contro Real Madrid, devo dire che ha giocato anche molto bene, ma fin quando ha tenuto la preparazione atletica. Tuttavia mi domando come mai la Juventus non mette in campo un tal Giovinco, che secondo me è davvero un grande campione, potrebbe essere molto utile alla Juventus, e invece viene sempre relegato in panchino, fatto giocare soltanto per sprazzi di partita. A mio avviso in questa maniera lo si fa arrugginire e perdere la freschezza di un campione che potrebbe essere utile sia alla Juventus ma anche poi all'Italia, come si vede con l'Under 21. Questa era la mia domanda. La ringrazio molto e complimenti per la trasmissione. La ringrazio. Nel caso di ieri sera non mi sembra una scelta molto discutibile, nel senso che ieri sera serviva sostanza e serviva esperienza internazionale. Il ballottaggio, non parliamo della formazione di partenza, non si poteva certamente rinunciare ad Amauri per ragioni di stazza, oltre che tecniche, credo non si potesse nemmeno rinunciare a Del Piero, ma il ballottaggio poteva essere soltanto Del Piero Giovinco. In una partita così gioca tutta la vita Del Piero, io credo, e dopo 5 minuti si è anche capito, mi pare, perché Giovinco è un'alternativa, è uno che merita di giocare, che merita ribalte, che merita possibilità, non necessariamente in partite come quelle di ieri, ma prima o poi c'è spazio per tutti. Se Ranieri non vuol commettere un errore grave, spazio per Giovinco lo deve trovare al più presto, doveva già trovare di più prima probabilmente. Ieri sera direi che forse non era, anzi secondo me proprio non era il caso. Grazie a Gigi Borghi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'attenzione, ci risentiamo domani regolarmente alle 3:00.